Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti da Magazine 24, il nostro appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Questa mattina vi voglio proporre una riflessione che ho trovato su Famiglia Cristiana, una riflessione inusuale, quindi a mio giudizio particolarmente interessante. Litigo dunque cresco è il punto di partenza, ma tutta la riflessione che viene svolta dalle pagine di Famiglia Cristiana è: ma siamo capaci di litigare ancora? Sappiamo utilizzare, se così si può dire, il litigio, la lite? Abbiamo la capacità ancora di litigare in modo costruttivo, in modo utile per tutti, o magari no? E ci sono naturalmente segnali per l'una e per l'altra parte, come spesso accade con argomenti di questa portata. Lo sguardo dell'articolo proposto da Simone Bruno e Orsola Vetri comincia dalla fase infantile, litigo dunque cresco. Gli esperti avvisano che le litigate tra i bambini sono un'esperienza educativa. I genitori non devono cercare subito il colpevole, perché i figli devono anche imparare a vedere i problemi da diversi punti di vista. È bello questo, come comincia questo articolo, che dice: basta litigare, non è bello, datevi la mano, fate la pace. Un simile invito, raccomandato ogni giorno da tantissimi genitori, sembra un tenero e morbido suggerimento. In realtà è tutt'altro. A ben vedere racchiude un mix esplosivo di imbarazzo, vergogna, preoccupazione, cioè alcune tra le emozioni che più assalgono i genitori quando si accorgono che i figli sono impegnati anima e corpo in un litigio e li spingono ad applicare quindi misure disciplinari drastiche. Eppure, prosegue l'articolo, litigare non sempre costituisce un'esperienza negativa, anzi, per molti specialisti racchiude un'occasione educativa densa, ricca di stimoli per la crescita di ogni bambino. Lo dice, tra l'altro, in questo articolo Daniele Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza. Ha scritto anche un volume, il professor Novara, che si chiama Litigare per Crescere. Spiega: nella nostra società, in cui tutto vogliono avere tutto il più presto possibile, vivere un litigio e imparare a gestirlo per superarlo può costituire una valida opportunità per favorire lo sviluppo di un bambino. E più in là un altro contributo avverte: se litigare significa discutere per esporre agli altri il proprio punto di vista, allora senza dubbio è necessario in qualsiasi rapporto tra le persone, figuriamoci in famiglia. L'importante è, anche quando si litiga, saper ascoltare l'altro e alla fine arrivare a una soluzione che soddisfi tutti. Così avviene anche, appunto, nelle liti tra i genitori. È un argomento ricorrente di riflessione tra i genitori in famiglia, ma se poi i figli vedono i genitori litigare, questo potrebbe disturbare. Non è proprio detto che sia così. Infatti Vittoria Cesari Lusso, che è una docente di psicologia, che viene appunto sentita da Orsola Vetri per Famiglia Cristiana, dice: è normale che una coppia non litighi mai, le chiedono, può succedere, ma è impossibile che non ci siano dei conflitti. Allora i due termini, litigio e conflitto, vengono confusi, però hanno un diverso significato. I conflitti sono delle opposizioni tra i punti di vista o delle volontà. Il litigio è un modo, in genere corrosivo, di espressione del conflitto. Quest'ultimo però è inevitabile, perché la coppia è formata da due persone e ognuna ha le proprie caratteristiche. È normale che la fiamma del conflitto si accenda, l'importante è che non si trasformi in incendio. Dice: ma litigare davanti ai figli mai o qualche volta è permesso? Dice: credo che oggi più che mai i figli abbiano bisogno di modelli adulti di comunicazione, modelli capaci di affrontare le normali divergenze quotidiane in una maniera pacata, senza screditare l'avversario. Quindi adulti che sappiano cercare compromessi, spegnere le tensioni, utilizzare se è necessario l'umorismo, l'empatia. I litigi dei genitori immancabilmente poi fanno soffrire i figli. Però può capitare a tutti, e ci sono dei momenti in cui si è più a rischio, al mattino quando si è di corsa, alla sera quando si è stanchi. Se succede, avverte appunto la dottoressa Lusso, se succede non è un dramma. Importante poi parlarne con i figli, rassicurarli spiegando che non è colpa loro, che agli adulti capita di reagire talvolta in modo irruente, che si è coscienti di non aver magari offerto un buon modello, però insomma si cercherà di comunicare meglio in futuro. Quindi non è che poi si debba temere il litigio davanti ai figli come un'eventualità irreparabile, si può anche utilizzare questo momento. Poi naturalmente ci sono le liti e i confronti con genitori, suoceri, suocere, e qui si dice è giusto evitare discussioni ad esempio con i giovani genitori per il quieto vivere o magari lasciarli fare perché sono giovani. Comunque sarebbe bene, avverte Vittoria Cesari Lusso, ancora la Famiglia Cristiana, che in ogni sistema familiare ci sia almeno una persona, che sia giovane, che sia anziana, non importa, che abbia la saggezza di capire quando la discussione serve e quando invece la discussione non è affatto proficua. Da qui naturalmente Famiglia Cristiana si sposta alla cattiva maestra televisione, perché parlare di litigi vuol dire ormai spesso parlare di litigi messi in scena dalla televisione. Perché? Perché, come spiega Marco De Riu, che firma appunto un contributo sempre su Famiglia Cristiana, Marco De Riu è un docente di teoria tecnica delle comunicazioni di massa alla Cattolica, litigare in televisione fa bene all'audience, non certo a noi telespettatori, che anzi faremmo volentieri a meno di certi tristi spettacoli offerti dalle risse sul piccolo schermo, ma a quanto pare i litigi televisivi attirano l'attenzione, così come accade per gli argomenti scabrosi, per le tragedie familiari, eccetera, e quindi poi il litigio viene spesso cercato, provocato, alimentato dalle televisioni. E ci sarebbero in realtà delle severe norme di autoregolamentazione per la RAI, per le emittenti private, però capita ormai sempre più spesso, sono sempre le parole di De Riu, di imbattersi in vere e proprie risse verbali in cui talvolta si sfiora anche lo scontro fisico, e ci sono ormai trasmissioni che sul litigio fondano la loro ragion d'essere, quindi su litigi messi in scena, litigi cercati, alimentati e poi sceneggiati anche dai loro interpreti. Questa è l'avvertimento appunto di De Riu, e a corollario appunto vi voglio riportare da dove siamo partiti, cioè il confronto è ottimo e costruttivo anche quando si hanno delle divergenze, è un parere che viene riportato dalle pagine di Famiglia Cristiana. La lite no, perché urlando ci si agita troppo, si finisce col dire cose cattive, magari cose che in realtà non si pensano, quindi imparare a litigare, imparare a gestire le liti o a controllare le liti è un po' il senso di tutte queste pagine che vi ho segnalato. Cambiamo argomento, ma parliamo di un signore che ha sempre interpretato ruoli da litigioso, o ha spesso interpretato ruoli da litigioso. C'è sull'Espresso di questa settimana un colloquio con Jack Nicholson, un colloquio di Lorenzo Soria, in cui appunto Nicholson si lascia un po' andare ad alcuni giudizi, ad alcuni particolari sulla sua vita privata dopo i molti anni, appunto, come indimenticabile interprete di film quali Easy Rider, Chinatown, Professional Reporter, Shining e moltissimi altri ancora. Beh, in questa intervista Nicholson, che oggi ha 73 anni, lo descrive così Soria: i capelli sono meno folti e più grigi, Nicholson ormai ha la pancia di un buon tempone e cammina un po' esitante, però dietro i suoi occhiali scuri gli occhi sono quelli un po' diabolici e sovversivi di una volta, e se quando parla c'è più introspezione e ricordi, sa ancora come essere provocatorio, anche sovversivo e giocherellone. Tra l'altro Nicholson si segnala in questa intervista come un professionista molto serio, dice: nei miei 50 anni di cinema mi è capitato di tutto, ma non ho mai mancato un giorno di lavoro, non ho mai tenuto un set ad aspettare me, mi è successo solo una volta perché mi è partita la schiena mentre giravo Shining con Kubrick. Quindi un professionista che ci tiene molto a far sapere di essere una persona seria, una persona anche disponibile con i registi, perché ad esempio dice di Kubrick aveva la fama di fare un sacco di riprese, quando l'ho incontrato gli ho detto se lui voleva farne 60, a me andava bene anche arrivare a 61. Non lo avessi mai detto perché mi ha preso sul serio e quindi era sempre alla ricerca della scena perfetta. Le scene quindi diventavano lunghissime, girati diventavano sempre più lunghi. E poi qua e là gli chiedono, nell'intervista gli si chiede: visto che lei ama oziare, come passa il tempo? Ma vedo figli e nipoti, gioco a golf, incontro amici, faccio una vita poco complicata ed esco poco perché raramente mi diverto. Spesso sono a casa da solo, quindi un po' di misantropia anche, se volete, per Nicholson. Ha mai pensato alla chirurgia plastica? A volte vorrei fare la chirurgia laser agli occhi, rivela Nicholson, perché vado sempre in giro con gli occhiali da vista, poi gli occhiali da lontano, quelli per il giorno, quelli per la notte. Invece non mi preoccupo delle rughe, né delle mie né di quelle delle donne, anzi le trovo interessanti. Si tiene al corrente con la tecnologia? È l'ultima domanda di Soria a Nicholson sull'Espresso. Non direi. Ho lo stesso numero di telefono a 50 anni, ho ancora una segreteria telefonica con nastri. Ah, avevo anche un cellulare, lo tenevo in macchina, però da un paio d'anni ormai non funziona più. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato di litigare, saper litigare, sapere non litigare o magari usare il litigio. Tutto questo da un articolo, appunto, una serie di articoli che compaiono su Famiglia Cristiana. Ci sono altri aspetti della vita di famiglia, perché poi questo è soprattutto l'ambiente in cui si può mettere a frutto anche il contrasto e il litigio, ma dicevo, ci sono altri aspetti della vita di famiglia che vengono segnalati da altri settimanali. Ad esempio, su Donna Moderna una tendenza che sta preoccupando i genitori: l'uso massiccio di alcol da parte dei figli adolescenti. Alcol, le 10 domande che si fa un genitore, è il lavoro di Antonella Trentin, che viene presentato appunto su Donna Moderna. Si parte naturalmente dal caso di cronaca di Elisa Benedetti, ricorderete la ragazza di Città di Castello trovata morta il 30 di gennaio, ma da lì si segnala soprattutto che ci sono delle indicazioni coerenti che indicano un aumento del consumo di alcol, di un consumo smodato, di un consumo non controllato. L'ultima indagine Doxa sugli italiani, scrive appunto la Trentin, dice che sempre più giovani fra i 13 e i 24 anni fanno esperienza di binge drinking, significa bere fino a stordirsi, quindi un bere per sballare, per provare, insomma, una sorta di abuso volontario di alcol. E l'abuso, questo tipo di abuso tra i teenager, tra appunto le persone tra i 13 e i 19 anni, è diventato forse più pericoloso del consumo di cocaina. Tra l'altro si segnala che il 25% delle morti tra ragazzi in tutta Europa sia collegato in qualche modo al consumo sfrenato di alcol. Ora, tutte le volte che si tocca questo argomento, specialmente in Italia, poi si fa presente che invece noi abbiamo una tradizione di produzione di alcol, di produzione vinicola di tutto rispetto. Questo naturalmente non vuole essere un passaggio contro questo tipo di produzioni, anzi imparare a bere, imparare a gustare del vino significa proprio anche evitare questi abusi che in realtà vengono solo perseguiti per voglia di sballo, per voglia di distacco dalla realtà. E infatti, come osserva Galimberti nelle pagine di Donna Moderna, il filosofo Umberto Galimberti, in realtà qui i giovani cercano un anestetico, un'esistenza senza passione, eppure sono loro che rappresentano la massima forza in una società. E che futuro possiamo avere se non proteggiamo la nostra forza? E da lì poi derivano appunto i consigli, come si fa ad accorgersi se i figli iniziano a bere in questo modo incontrollato, come capire se c'è un figlio bevitore abituale, perché quali sono i motivi che portano a perdersi appunto nell'alcol, e anche i rischi per la salute, che sono molti, sono molto elevati, specialmente in giovane età. Si dice sono rischi enormi. Qui si parla di una persona che è in fase di crescita, quindi l'alcol appena ingerito si diffonde con grande rapidità in tutto l'organismo e, diventando un'abitudine, può portare danni dal sistema nervoso, le cirrosi e così via, male anche più gravi. Si chiede anche una domanda che probabilmente molti genitori si sono sentiti rivolgere. A rispondere Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano: se mio figlio di 15-16 anni vuole comprare qualche birra per la festa di compleanno con gli amici, la risposta è: cosa vuol dire qualche birra? Se è una a testa, a bassa gradazione e solo in quell'occasione, se ne può discutere, però rimango dell'idea che i più giovani dovrebbero evitare gli alcolici. E l'ultima domanda: dopo quanti bicchieri diventa pericoloso guidare auto o motorino? E qui si ricorda che il codice della strada è particolarmente severo, stabilisce un limite di alcolemia che è pari a 0,5 grammi per litro, cioè in pratica bastano pochissimi bicchieri, due, per superare la soglia. Però poi questo dipende anche dalla velocità con cui si beve, dal peso corporeo, dal fatto che si sia bevuto a stomaco vuoto oppure a stomaco pieno. E qui c'è la regola più saggia di tutte, che è appunto: se hai bevuto, fai guidare un altro. E questo è anche il modo in cui Antonella Trentin conclude il suo articolo su Donna Moderna di questa settimana. Un altro tema legato alla famiglia è il ritorno sulla adozione consentita o non consentita ai single. Allora qui va fatto anche un chiarimento: alcuni giornali hanno segnalato che la Corte di Cassazione avrebbe invitato a modificare la legge per permettere ai single di adottare. In realtà la sentenza della Corte di Cassazione, tra l'altro per chi la volesse leggere, è sul sito del Sole 24 Ore, ad esempio www.sole24ore.com. La sentenza della Corte di Cassazione si preoccupa soprattutto di negare l'adozione a una donna single, consentendole solo un certo tipo di adozione che si chiama non legittimante, ma trascurando questo aspetto più tecnico, nelle ultimissime righe questa sentenza dice: se poi il legislatore volesse modificare la normativa, secondo il giudizio appunto della Cassazione, la cosa non sarebbe in contrasto con le convenzioni internazionali. Quindi è una cosa decisamente più prudente di quello che magari potete avere visto o colto sui giornali. Torna sull'argomento Eugenio Borgna su Vita di questa settimana e prende una posizione molto decisa, dicendo: guardate che l'adozione ai single è un errore, perché l'amore, dice, è dualità. E pensiamo proprio a chi nasce con attitudini grandi ma con caratteristiche di fragilità, come è il caso di un bambino che si trova nelle condizioni di dover essere adottato da una nuova famiglia. Bene, durante il percorso delicato della sua maturazione si troverà, se appunto gli mancasse un genitore, a dover soffrire ulteriormente, sarà privato di quell'atmosfera che certo è complessa ma è vigorosa e creativa che solo una coppia può dare. Questo dice nel testo raccolto da Marco Dotti su Vita di questa settimana. Allora, abbiamo ancora un minuto per, diciamo appunto, di argomenti lanciati dai giornali, poi magari con una enfasi un po' diversa da quella che è la realtà dei fatti. Qualche volta succede, ohimè. Ad esempio, un argomento di cui si parla molto in politica, ne parliamo molto ma forse non sappiamo di che si tratta, è il federalismo. Su Vanity Fair questa settimana il federalismo è il tema del sondaggio di Pagnoncelli e di Ipsos. Scusi, federalismo che cosa? Si parla tanto di riforma fiscale, segnala, ma solo il 12% degli italiani sa di che si tratta, sa che cos'è la riforma fiscale, del fisco in chiave federalista, appunto, che si sta discutendo e che tanti problemi anche sta creando alla stessa maggioranza con le sue discussioni interne. Federalismo municipale, praticamente l'84% di chi ha risposto a questo sondaggio non ha capito di che si sta parlando. Questo forse dovrebbe far riflettere anche su quanto noi giornalisti poi sappiamo informare. Ma io mi fermo qua, per carità, grazie al cielo il tempo finisce proprio su questa cosa imbarazzante. Allora vi auguro innanzitutto una buona domenica e poi ringrazio Pietro Lacorte e Anita Panizza che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che da oggi trovate in edicola con il Sole 24 Ore il secondo volume della nostra collana dedicata alle grandi religioni. Sono 6 volumi in tutto. Questo secondo volume è dedicato alla seconda parte, appunto, del cristianesimo. Grazie, buona domenica a tutti.